Allora, intanto inizio con il dare il benvenuto a Claudio Ceruti, per gli amici Ceru, nome di battaglia Ceru, e lo ringrazio perché è venuto intanto a trovarci da quelle terre lontane della Brexit, e anche perché ha scritto un libro anche molto intelligente, di cui l'internet mormora che ci sia un ghostwriter nella figura del vichingo, tra l'altro, esatto. E niente, fondamentalmente è un libro molto interessante, secondo me, che ha la capacità di muoversi un po' da quello che rischia di essere il dibattito un po' interno nei movimenti, che è tipo riusciamo ad usarlo bene perché non si può che stare sui social, oppure dobbiamo boicottarli, come che ovviamente ci sta che esista, perché è un dibattito molto funzionale a quello che facciamo. Ma viceversa, secondo me, questo pezzo qui ci fa fare un passo indietro, un passo avanti, nella direzione di capire come questi come dire, apparati tecnologici, e nello specifico dei social network, sono di fatto funzionali al sistema capitalistico. E questo è interessante anche perché in realtà era un pezzo di discorso che qua avevamo già iniziato con un documento che ci aveva presentato Unit, che fra le altre cose diciamo e che poi è stato sviluppato in un altro stimolo rispetto a neutralità e non neutralità della tecnologia. E quindi fondamentalmente, tanto per rompere il ghiaccio, ti vorrei chiedere, visto che l'hai scritto tu questo libro, cosa si dice all'inizio di pagina 17? No, scherzo, no, non è vero, quello che volevo dirti era, la sai, no, non è una di queste, te ne ho detta una a caso, eh sì, facile, così so che faccio anch'io, allora è vero che l'ha scritto il vichingo, no, comunque, vede, è tutto giusto, no, volevo che tu ci dicessi, pezzo facilissimo, ho detto un numero a caso tra l'altro, per metterti alla prova, no, quello che volevo che tu ci raccontassi è come nasce questo libro, più che altro in termini di che senso ha parlare di social in questi termini e perché hai deciso di farlo. Allora, beh, sì, sta cosa del microfono è un po' strana, però comunque sì, però diciamo che la nascita di questo libro deriva principalmente dal fatto che occupandomi anche per lavoro di questioni con i social network, mi sono ritrovato a leggere tante analisi anche di movimento rispetto a quelli che sono il ruolo dei social network che dal mio punto di vista, e quindi posso dirlo anche con una certa arroganza, toglievano, cioè sbagliavano totalmente il tiro rispetto all'analisi. Il libro parte proprio, un libro sui social network che parte proprio con l'analisi di quello che, la descrizione di quello che era il cyber scene cileno del 70, 71-73, nasce proprio con questa idea di andare a togliere questa concezione dei social come una sorta di alieno che è emerso nelle nostre vite improvvisamente, velocissimamente, solo qualche decennio fa, che è una cosa quasi astorica, che ce lo ritroviamo a farci conti, senza però andare a ricondurre quello che è stato il processo di realizzazione del social network, come i social network sono nati e a che cosa rispondono. Cioè, quando tante analisi che ho visto sui social lo vedono più come, anche dal punto di vista del movimento, lo vedono come un problema di comunicazione su come starci sui social, non dimenticandosi, ma mettendo a lato un po' le funzioni che i social hanno e a che cosa rispondono. Come hai detto bene tu, rispondono ovviamente al capitalismo, come tutto il resto nel nostro mondo purtroppo, ma i processi per cui i social vengono realizzati in un certo modo è perché proprio rispondono a questo obiettivo capitalistico, che è praticamente il profitto, cioè di mettere a profitto le relazioni sociali e le nostre relazioni collettive. Il partire con questo esempio del cyber scene sileno, che lo faccia breve perché poi è praticamente questo esperimento nel Cile socialista di Allende, che Allende vince contro praticamente ogni aspettativa in Cile, si ritrova a nazionalizzare le industrie del paese, le industrie minerarie e ad un certo punto per gestire queste industrie tentano di costruire questo sistema cibernetico, si chiamava all'epoca, di quindi connessione delle varie unità produttive in una rete in cui i vari nodi della rete, che erano i comitati di fabbrica, erano autonomi come l'idea della decentralizzazione di internet e che permetteva quindi una sorta di controllo democratico attuato attraverso la tecnologia, dà l'idea che praticamente queste forme tecnologiche, cioè queste mediazioni tecnologiche delle relazioni sociali, non debbano per forza rispondere a una funzione capitalista. Quindi c'è la possibilità che queste funzioni sociali possano, queste mediazioni tecnologiche delle funzioni, delle relazioni sociali possono essere, attuate in maniera alternativa. E l'idea dei social network, quindi realizzati come, cioè considerati come quello che nel nostro uso quotidiano cioè ci ritroviamo con cui ci ritroviamo ad interagire, non è un buon punto di partenza se non vengono messe queste tecnologie all'interno della loro genesi, del loro percorso, di come nascono e di che cosa rispondono principalmente, che è prima di tutto la messa a profitto delle relazioni e come questo viene attuato e cosa questo produce, prima ancora che come utilizziamo i social in generale. Allora, a questo, tra l'altro, prima siamo partiti, non abbiamo aggiunto che io adesso ho in mente, allora adesso un po' racconto come è fatto il libro, così vi do anche un'idea di che cosa pensavo di chiedere a Claudio. Viceversa è anche aperto il microfono, quindi chi si sente di interagire in mezzo lo può fare serenamente. Credo che sia figo anche perché, come dire, smontare un po' i pezzi di questa cosa ci consente di dire che se è vero che la tecnologia non è neutra, perché è apparato di un sistema e quindi si adegua a quello, viceversa non c'è Mr. Burns cattivo in un angolo che fa muah e pensa a come dire, a come soggiogare il mondo per suo piacere personale, viceversa è evidentemente funzionale alla creazione di profitto. E a questo volevo dire, tra l'altro, in maniera totalmente estemporanea, perché mi è venuto in mente, che tra l'altro mi ha fatto molto sorridere perché mi ha richiamato alla mente una discussione che un tot di tempo fa avevamo avuto, in cui era presente anche Luciano Mulbauer, che diceva che probabilmente la forza principale, per loro studenti universitari durante gli anni della Pantera è stata l'arrivo del fax, perché ha costituito come dire, una possibilità nuova di coordinamento dei movimenti e delle lotte in tempo anche reale, che all'epoca lui diceva effettivamente aveva rappresentato un cambio di passo pazzesco, nel senso che appunto tu c'avevi nella facoltà occupata il tuo fax occupato con il tuo numero occupato, che all'inizio la mattina andava lì il collettivo, scriveva le sue cose, le mandava a quello di Roma, a quello di Firenze. Vabbè, questo mi è venuto in mente così. E detto questo, invece, appunto, la cosa simpatica e intelligente che fa questo libro è quella di appunto partire da degli esempi che non hanno necessariamente o tendenzialmente non hanno a che vedere con il mondo dei social network e che viceversa rappresentano come dire, degli esempi di come tecnologia e sistema fondamentalmente sono collegati. Per quanto riguarda il primo capitolo, secondo me una roba, a un certo punto si parla di colonizzazione dei mercati e dei dati, in particolare rispetto a, come dire, due macro direzioni, una rispetto all'economia di scala del tech che gli permette di fare la botta durante il durante la crisi della bolla dei subprime, e l'altra invece molto più epidemica invece rispetto al data colonialism e alla datificazione. E vorrei che tu ci raccontassi un po' come funziona, come si trae profitto, come... Sì, allora la questione della bolla dei mutui dei subprime, diciamo che lì in quel momento c'erano grandi bolle di capitale che non trovavano più diciamo sfoghi all'interno della borsa o nel mercato immobiliare, e sono tra virgolette stati salvati dal fatto che adesso correlazioni così dirette è difficile da fare, però nello stesso periodo o poco prima la Apple brevetta il meccanismo di notifica, cioè le notifiche non esistevano fino a 2008-2007, cioè quel periodo lì, in maniera così diffusa. E il meccanismo di notifica è quello che ha permesso in pratica l'ingresso nella sfera relazionale di vita personale nostra di un meccanismo di predazione dei dati in maniera continuativa, in grado di prendere la nostra attenzione e rivolgerla sulle applicazioni. In pratica ci ha resi tutti molto più produttivi nella produzione di dati, ecco. E questo ha tra virgolette salvato un mercato che era un po' asfittico riguardo alle forme di investimento, e ha buttato tantissimo nel tech, ha capito che attraverso quelle tecnologie si apriva un mondo che, se ci pensate un attimo, tutte le crisi di capitalismo si risolvono con l'apertura ai nuovi mercati, come potrebbero essere le colonie, come poteva essere la catena di montaggio, come poteva essere la catena di montaggio diffusa dopo gli anni 70. Cioè comunque, cioè ogni crisi di capitalistica si risolve con l'apertura di nuovi mercati, e il mercato dei dati è uno dei mercati più floridi. Che adesso non voglio dire cifre a caso, però diciamo che storicamente l'umanità raramente si è trovata ad avere una apertura di potenziali ricchezze così elevate, perché la messa a profitto delle relazioni sociali del nostro quotidiano, della nostra sfera relazionale, è qualcosa che il capitalismo non era mai riuscito ad ottenere. Cioè il capitalismo classico industriale di stampo fordista aveva sempre il tempo produttivo e poi il tempo improduttivo, che era quello che tu facevi fuori dalla fabbrica, fuori dal lavoro. Il famoso lavoro di cura relazionale al di fuori, che che femminile, che principalmente che veniva fatto e che era assolutamente un puntello e una fondamenta della predazione capitalistica del lavoro di fabbrica, dico in maniera proprio lavoro salariato, per dirla proprio con termini che non, io sono un principiante di queste cose quindi sbaglierò, però l'idea principale è che quel lavoro di cura, quel lavoro relazionale viene messo a profitto in maniera fondamentale. Quindi è come se a un certo punto si cadesse un muro e si aprisse tutto questo mercato. Qui si parla di colonialismo dei dati, poi è un'accezione un pochino controversa, però l'idea è che praticamente si aprono, proprio come nel primo periodo delle colonie, un mercato totalmente nuovo, tra virgolette, che tra l'altro, come le colonie, qui l'analogia regge un po' di più, c'è tutta questa popolazione indigena autoctona che non si vede come proprietaria di quelle risorse o quantomeno coinvolta nell'estrazione delle risorse dalle colonie. Allo stesso modo noi non siamo visti come, non dico proprietari, ma nemmeno coinvolti nella predazione dei dati delle nostre relazioni. Quindi tutta questa apertura di questo nuovo mercato permette a un sistema capitalistico in grande sofferenza di potersi sostentare riuscire anzi ad aprire nuove fonti di guadagno inesauribili. La principale forma di guadagno dei grandi social, almeno se pensi, è la forma delle pubblicità, che è la cosa più semplice, però è la cosa che permette la vendita dei nostri profili digitali, che in pratica non sono altro che delle forme di classificazioni della nostra presenza all'interno delle piattaforme social. Cioè noi praticamente veniamo ricondotti a un insieme di categorie che sono le più varie, perché se voi andate a vedere l'insieme di dati acquistabili, io posso scegliere di acquistare i dati relativi a... C'era questa categoria che mi faceva abbastanza ridere, Kid and Cabernet, cioè praticamente donne che hanno figlie che bevono vino di solito per lo stress, e che quindi è una categoria che, se pensi che sei un venditore di vino nella valle della California, è ovvio che ti interessa molto fare pubblicità su questa cosa, ed è qualcosa di molto che valorizza molto il fatto che semplicemente tu, bevendo vino, mettendo un like alla tua amica che ha avuto un figlio e che beve vino come te, e fatti un like, diventi vendibile su quel mercato. Poi io divago, quindi fermatemi, fate domande anche tu, cioè se no andiamo avanti all'infinito e poi mi perdo, quindi perdo anche il filo più e più volte. Però non solo, poi la questione, uno da anche al di là però anche della pubblicità, il fatto, per ragionare in maniera più astratta e più generale, i padroni dei social in pratica hanno questo grandissimo vantaggio economico derivante dall'essere gatekeeper, cioè sono quelli che praticamente sono i troll del ponte, che stanno sulla soglia d'accesso alle relazioni sociali costruite attraverso la mediazione tecnologica, e che quindi tu, per poter accedere, paghi un dazio, che sia la produzione di dati o una subscription, un abbonamento o un qualcosa. Quindi le nostre relazioni praticamente sono state proiettate in un mondo che è, anche qui, quando si diceva prima per ridere, mondo digitale, mondo reale, non vedo nessuna divisione tra reale e digitale, c'è una totale continuità. Nel secondo capitolo ne parlo con l'ISIS, che praticamente diventa una delle forze più pericolose a livello mondiale proprio per la loro presenza online, e che permette a loro, attraverso la presenza online, di essere molto più potente di quanto potevano essere precedentemente, come una forza di stampo terroristica o di esercito del male in qualche angolo del mondo. Loro riescono ad avere questa presenza online che gli permette di essere assolutamente materiali nel loro incutere terrore al resto del mondo, e soprattutto poi vi faccio un esempio: era l'unico movimento di stampo terroristico, delineato come di stampo terroristica, con cui tu potevi accederci attraverso una ricerca su Google, che era una roba abbastanza... è l'unico al mondo nella storia. E diciamo, quindi, questa, la vera ricchezza dei padroni dei social e della spinta capitalistica è proprio la costruzione di questo recinto delle relazioni sociali mediate alla tecnologia, in cui tu puoi entrare attraverso la produzione di dati o comunque la vendita delle ricchezze collettive alle fonti di profitto e di estrazione. Sì, così ci sentono nell'internet, e forse in futuro ci sentiranno nell'etere con le repliche. Allora io ti provo a dare una mano, ci provo a dare una mano per trovare un filo. Ma noi che siamo i movimenti, ci dobbiamo stare dentro o no? Perché io... E Unit c'ha proprio un'idea molto forte su questa cosa qua. Unit è un collettivo hacker che sta in questo posto, che partecipa alla vita di questo spazio. Poco, potremmo fare più vita. Però abbiamo un'idea molto forte al riguardo. Però siamo molto interessati alla tua idea. Allora, io te la smonto subito, nel senso che non è... Cioè, nel senso, è un... cioè stare dentro Facebook, cioè aprire la pagina Facebook, non ha, dal mio punto di vista, una funzione, cioè non... non è che cambi molto se ce l'hai o non ce l'hai. Cioè tu sei dentro comunque, cioè nel senso, io penso più che altro che ai social network non come una realizzazione pratica, cioè non parlo di Facebook, Twitter, che poi sì, cioè l'analisi parte da lì, da Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, però il mio punto di vista è più sulle pratiche che hanno portato alla realizzazione di queste cose. Quindi, cioè, dal mio punto di vista, i movimenti dovrebbero interfacciarsi con un, cioè relazionarsi con un mondo che vede la mediazione tecnologica delle relazioni, nel senso che indipendentemente da il social considerato, ci sono dei cambiamenti con cui però non puoi fare a meno che averci a che fare, perché sono le relazioni di produzioni fondamentali e più forti che ci sono nel mondo in questo momento. Cioè il vero motore di produzione, quello che muove il capitalismo in questo momento, è proprio la tecnologizzazione delle relazioni sociali. Quindi io, più che decidere se stare dentro o fuori nei social, per me i movimenti dovrebbero interrogarsi su se è possibile utilizzare le tecnologie per la produzione di spazi alternativi di relazioni sociali mediati da tecnologia. Nel senso, se il mondo che si è venuto a creare è un mondo che è stato creato in cui il capitalismo e il profitto ha disegnato e prodotto determinate forme di cristallizzazioni delle relazioni sociali, è possibile utilizzare le tecnologie per far saltare questa cosa, costruire spazi alternativi che attraverso le relazioni sociali, come dicevi tu, il fax. Cioè il fax in sé poteva essere, come tra l'altro CyberScene si muoveva su telescriventi, quindi cioè sono l'utilizzo della tecnologia come mezzo di apertura di altri mondi possibili, ovviamente senza fare l'errore di considerare la tecnologia neutra. Nel momento in cui tu, io costruisco una tecnologia, questa incorpora un suo obiettivo specifico che difficilmente potrà essere utilizzato in altri modi, ma in realtà la tecnologia attuale, le tecnologie attuali si caratterizzano per essere assolutamente in grado di essere multitasking, essere programmate per fare altro. Questa è la caratteristica fondamentale che le differenzia dalle macchine di stampo fordista, per farlo dire, cioè quelle che hanno una macchina, uno scopo, cioè un tornio, farà il tornio, un PC farà tutto quello che riesce a fare il programmare sopra. E quello che tu riesci a programmargli sopra è quello che ti può aprire uno spazio alternativo rispetto a questa cosa. La difficoltà sta nella costruzione di questa cosa, ma soprattutto nella consapevolezza che lo spazio, cioè quello che tento di spiegare nel libro, è che lo spazio delle relazioni tecnologicamente mediate è uno spazio reale da conquistare, in cui è possibile costruire un'opposizione. Non so come, non chiedetemelo, se no, cioè, altrimenti avrei scritto anche un altro libro a compendio, ma è però il fatto che, cioè, non è tanto stare dentro il social network specifico, ma è stare dentro questa concezione del mondo, che per me è quella più rispondente alla realtà, che è quella di avere queste tecnologie che producono mondi, e che e riuscire a costruire macchine che producono mondi alternativi. È un concetto magari un pochino complesso, lo spiego un pochino meglio con un esempio che probabilmente genererà più confusione, però cerchiamo di vederlo. Allora, io descrivo nel libro l'assalto al Campidoglio, Capitol Hill, del 6 gennaio 2020. Sì, 21. Del 6 gennaio 2021. Allora, quell'assalto difficilmente ci sarebbe stato senza i social network o l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione che ci sono state. Ma questo perché? Perché l'utilizzo di quelle tecnologie hanno prodotto una realtà fisica, materiale, in cui tutta la narrazione di QAnon, di Trump, difensore della, contro il Deep State e Cavaliere Bianco contro questa oligarchia satanista pedofila che controlla tutto, era assolutamente reale. Sì. No. Ma, no, io non sto scherzando. Io penso esattamente che che quelle persone, nel senso, hanno prodotto nelle loro relazioni questa realtà, questo mondo, e per una serie di casi che descrivono nel libro non si è realizzato, ma se si fosse realizzato, semplicemente la loro interazione sociale attraverso le tecnologie avrebbe perfettamente realizzato le profezie di QAnon. Nel senso che se fosse tutto andato secondo i piani, i senatori e quelli della Camera americani sarebbero stati, i rappresentanti della Camera sarebbero stati presi e messi su degli autobus e portati in una base militare proprio per protocollo. Ma questo era proprio quello che era l'esatto disegno dell'arresto di queste persone, lo stato di emergenza e quindi il prosieguo della presidenza Trump. Quello che loro stavano facendo attraverso l'utilizzo dei social che hanno prodotto era affermare una realtà contro un'altra, non una visione della realtà, una realtà contro un'altra, cioè una materialità contro un'altra realtà. Cioè è stato il 6 gennaio c'è stato uno scontro tra due realtà, e quella di QAnon, quella di Trump, era una realtà che è stata costruita attraverso i social. Sì, hai fatto un esempio e hai messo sul tavolo un sacco di domande, quindi aspetta. Adesso allora mi concentro su due, allora quello che hai detto mi fa venire in mente due domande, non vorrei che questo fosse un botta risposta, quindi togliete il microfono anche a me. Esatto, moderatrice, fustigaci. Allora, la prima domanda è, per tornare all'inizio, a quello che ha scatenato quello che hai detto adesso, la domanda originaria era, ma noi come movimenti, in movimento, nei social ci dobbiamo stare pure noi? Tu hai detto non è che ci dobbiamo stare pure no, ma è credo di aver capito che è come dobbiamo porci rispetto alla realtà esistente, che questi strumenti esistono, le persone ci sono sopra. Allora la mia domanda concreta è, stasera c'è una cena sociale e il modo in cui si prenotava questa cena sociale in questo spazio occupato è scrivendo la pagina Instagram e scrivendo la pagina Facebook. Forse noi come movimento non ci immaginavamo fosse meglio scrivere una mail? Questa è la prima domanda, ed è un'autocritica. La seconda domanda è, e questo mi interessa moltissimo personalmente, tu hai detto, e io sono d'accordo, il 6 gennaio 2021 c'è stato uno scontro non tra due posizioni filosofiche, ma tra due realtà. Quindi, se una cosa si materializza virtualmente in un social o su una pagina di un giornale che è molto seguito, secondo te quella cosa è realtà? O c'è un'ancora fondamentale che discerne se una cosa è reale oppure no? Allora, parto dal fondo, che è la domanda più semplice, dato che parliamo di ontologie e filosofia. Però no, io ti faccio un esempio. Allora, noi abbiamo parto dall'esempio meno controverso, quindi, perché poi che in pratica mettiamo che tutti abbiamo un'app che prevede che tempo farà oggi. A un certo punto questo modello prevede che pioverà. Ok, quindi tutti, fai conto che siamo in una città, in una metropoli, e tutti ricevono la notifica che pioverà. Quindi cosa fanno? Tutti prendono l'ombrello, tutti dicono non vado a piedi, prendo la macchina, e si creerà l'ingorgo classico della giornata di pioggia, cose del genere. Quel giorno lì non piove. Cos'è cambiato? Il fatto semplicemente che non ha piovuto, ma tutto il resto della predizione, cioè quello che, cosa succede? Che le tecnologie, i social, cioè il fatto che noi viviamo a contatto con i social in queste relazioni, la scala e l'impatto che questi social hanno, social per dire macchine che lavorano nel sociale, sono in pratica in grado non tanto di predire, ma di performare, cioè di attuare, di produrre. E che il fatto che piova o meno non è più importante, cioè quello che noi consideriamo la realtà empirica, cioè di fronte a una predizione che copre un milione di persone che vivono in questa città di 2 milioni, e quindi tutti si comportano come se dovesse piovere, quindi fanno l'ingorgo, creano il casino di quando piove, è indipendente dal fatto che piove o meno. No, io penso che praticamente la capacità ontologica di queste macchine deve essere tenuta da conto. Cioè, nel senso, nel momento in cui io ho questa macchina che produce attraverso una scala ampia di impatto una realtà, io, consapevole di questo, mi muovo all'interno di questo scenario. Cioè, e costruisco un'opposizione, una ricomposizione di classe, quello che... consapevole della potenza di queste macchine, di questi social. Faccio un esempio molto più banale, che qui si apre il mondo. Durante il Covid noi avevamo un modello che era la curva dei contagi, in cui si decideva se aprire o meno. Quel modello di curva dei contagi, per esempio, per chiedere cosa dovevamo fare, quel modello di curva dei contagi a un certo punto era dato da il numero di infetti, il modello utilizzato, cose del genere. Quella tecnologia, che era, cioè, quella tecnica, quel modello utilizzato, non era assolutamente messo in discussione, non tanto su cose Novax, cazzate di quel tipo lì, ma sul fatto che io come singolo, come posso contare in quel modello? Cioè, come posso, per esempio, una cosa del fatto, mi ricordo da Bergamasco, il primo periodo del Covid, la gente voleva i tamponi, voleva essere, non solo per se stesso, ma capiva che se non veniva tamponato, veniva testato e non vedeva, cioè vedeva quella curva, non capiva che praticamente non era rispondente alla realtà. E il fatto di contare in questi modelli di misurazione della realtà è una cosa, è praticamente, adesso tiro analogie, quindi tiratemi le controverse, se ci pensi è un po' come il voto rappresentativo, cioè il fatto di, capisci? Io voglio contare a livello della misurazione tecnologica, perché quando io vengo misurato, io vengo realizzato, prendo materialità, esisto nel momento in cui in un modello emergenziale di quel tipo il mio essere positivo viene sommato e questo produce poi degli effetti su di me e sulla collettività. Cioè, è questo, cioè tu hai modelli e macchine che producono realtà, come ti opponi, come li apri a un controllo democratico e una presenza democratica? Questa è la domanda. La scuola potrebbe essere semplicemente il fatto che tu spieghi e fai una descrizione di questa roba, invece di, cioè, io sono vivendo in UK, c'è questo caso correttissimo, tra l'altro, cioè successo veramente, di questa povera ragazzina che è di 17 anni, che si è suicidata 2 o 3 anni fa, e i genitori hanno citato Instagram e Meta in tribunale, perché lei era esposta a una quantità di contenuto riguardante l'autolesionismo, cose di questo tipo. Una cosa pesantissima, cioè quello che è uscito dal tribunale è che i periti che hanno guardato il contenuto che lei ha visualizzato nelle settimane prima di togliersi la vita, c'è un periodo che ha detto: io non ho dormito 3 settimane dopo che ho visto queste cose. Quindi c'è, cioè, il problema però è che il discorso viene risolto con: dobbiamo regolamentare Facebook, quindi dobbiamo dare un codice etico a Zuckerberg che deve applicarlo sulla sua piattaforma. Questa cosa qui è un discorso che non funziona, cioè che toglie il rapporto tra i singoli, la collettività le macchine dalla dimensione di sia di produzione in realtà, di interazione orizzontale tra uomini e macchine, cioè un rapporto molto più complesso che non può essere considerato con delle regolamentazioni, con delle cose come se stessimo parlando di un prodotto, un'azienda normale, un prodotto qualsiasi, quando in realtà sono veramente delle cose che sono generatrici di mondi, non so come dire, definire in questo modo. Io mi permetto, poi giuro che però dovete parlare pure voi dopo, Brava. Io credo, cioè io me la traduco nella mia testa quello che hai detto come questa cosa, questo tipo di... Oh, scusate, c'è un cane che esce. Io sta soffrendo. Io la traduco nella mia testa come... cioè io capisco che tu dici generatore di mondi. Io sono molto attaccato all'approccio empirico e quindi non riesco a accettare questa nozione che stai utilizzando, però credo di capire cosa vuoi dire e io credo di tradurla nella mia testa con generatore di percezioni. Quindi se l'input che tu hai nella tua percezione del mondo è preponderantemente nutrito da questi strumenti, per te il mondo, perché la maggior parte del tuo input viene da quel canale, è quello. Ok. E semplicemente il concetto penso che sia se tu consideri la percezione come la realtà o percezione come percezione, poi basta. Sì, infatti Hume non mi piace la separazione tra empirico e analitico. Per me è una cosa che non sono più, sono materialista, cioè analitico e empirico si collassano, non è l'unico. Però scusate, stiamo andando, deve essere vodka tonic. No, io volevo aggiungere della pesantezza, no, nel senso che secondo me era, sì, ci tengo, però farlo con un altro... No, nel senso che secondo me il punto è, come dire, sono due visioni che vanno a combaciare nei termini in cui noi stiamo fondamentalmente parlando di, in questo libro in generale, in questa sede, stiamo parlando di come un assetto tecnologico che in questo momento viene espresso particolarmente con i social network di punta, ma che prevede un sacco di... di sovrastrutture che in questo momento non percepiamo come tali, e che questo assetto tecnologico sia, scusate, devo fare l'angolo marxista, la sovrastruttura del sistema capitalistico in cui siamo inseriti. Quindi il punto è questo tipo di assetto di tecnologia, in termini di questo assetto tecnologico, è un assetto educante, cioè noi tutti sviluppiamo la nostra vita intorno a questo tipo di interazione mediata, così come lo facciamo con il consumismo, nei termini in cui oramai siamo abituati, e lo dico guardando Unit perché so che ci sono delle combo fixer, nel senso che i fixer fanno un pezzo di questo ragionamento con in termini di non si ricompra da capo ma si sistema, e quindi smontare pezzo pezzo un altro grosso trancio della nostra vita che ci abitua al consumo e lo fa in un milione di modi diversi, così come questo tipo di tecnologia lo fa in un milione di modi diversi. Adesso noi siamo tutti grandicelli, nessuno di noi ha mai avuto un registro elettronico, ma il registro elettronico ha abituato le generazioni degli ultimi due quinquenni almeno, che se tu vai a scuola in ritardo non puoi mentire a tua drema, cioè se tu prendi un 4 tua madre lo sa un secondo dopo, tuo padre o tuo caregiver, qualsiasi, così. E certo, però viceversa, evidentemente, questa cosa qui sta imponendo una visione del mondo che diventa reale. Adesso poi le profezie autoavveranti, alcune sono cioè la prima volta che mi hanno spiegato la profezia autoavverante, mi hanno spiegato in campo economico, mi hanno detto: se io mi convinco che ci sarà una crisi economica, vado in posta, in banca, recupero tutto quello che ho, qualcuno mi vede, dice oddio, quello sa qualcosa che non sa, nel giro di 5 giorni sono tutti in paranoia, recuperano tutti i soldi dalla banca ed effettivamente la crisi che non esisteva lo fa. In termini meno, come dire, diretti ed evidenti, lo fa però anche il registro elettronico, nel senso che impone di fatto un modo di vivere la scuola a generazioni completamente diverso da quello che era per noi, e altrettanto lo fanno ognuno di questi social. Allora, su noi come compagni e compagne, come soggetti critici, come vogliamo porci all'interno della contraddizione che viviamo rispetto a se prendere o non prendere la Coca-Cola, se pensarci 2 o 3 volte prima di buttare una maglia che si è mezza stinta, o provare a cucirla, o provare a sistemare la cosa piuttosto che cambiare l'elettrodomestico, su se stare o meno sui social, fino a che punto starci. Un'altra cosa che per esempio a me mi viene in mente così saltando di palo in frasca, era una delle prime volte che parlavamo con gli unit e parlavamo di varie cose, a un certo punto salta fuori il discorso app, e le app sono delle configurazioni semplici che semplificano il coso e quindi fanno perdere di vista il meccanismo che sta dietro, cioè rendono tutto interattivo, è reale nei termini in cui un tot di persone non hanno neanche mai visto come funziona, gli sembra una magia, gli sembra che qualsiasi cosa possa avere un tasto, e vi giuro, lavorando con il pubblico, le persone, cioè quante persone pensano che adesso tutto sia interattivo, e lo dico avendo lavorato per tanto tempo in un museo di arte contemporanea, e che quindi se tocchi, che schiacci dei tasti, succedono delle cose come se fosse Disneyland, cioè tutto sommato, scusate, mi è partita un po' la crisi della cosa, però effettivamente questa roba è reale, cioè nel senso, di fatto è reale. Salto a questo punto perché il gancio secondo me funziona bene nel secondo capitolo, dove l'esempio che viene tirato in mezzo è addirittura la stampa a caratteri mobili e l'utero, e in quel caso si apre tutto il discorso delle fake news come di fatto bolle, comfort zone in cui si creano tutta una serie di svarioni, fra cui quello di QAnon, e che viceversa anche in questo caso viene detto che cambia l'abitudine epistemologica a cui siamo stati abituati per 600 anni della controprova, che si arriva cioè nel senso dai tempi di Galileo, cioè tu fai una cosa, poi c'è la controprova. Invece in questo caso, per esempio, cambia nei termini in cui una cosa paradossalmente più ha più prove contrarie, più diventa diventa vero, perché se è ostacolato dai main allora è sicuramente vero. E anche questa cosa, rispetto a come cambia la percezione che la gente ha del mondo e quindi come si relaziona effettivamente al mondo, diventa completamente diversa. E quantomeno sicuramente ci sta, secondo me, che continui anche questo dibattito rispetto a fisicamente come porsi e quanto singolarmente essere, cioè esporsi a queste contraddizioni che purtroppo sono la grande leitmotiv della nostra vita di militanti nell'Occidente del 2022, nell'Occidente scaccione, poi tra l'altro manco quello figo, capito, vabbè. Comunque, detto questo, secondo me ci sta anche, perché effettivamente poi per decine di migliaia di milioni di persone, a prescindere, effettivamente poi fa, però non so. Io su questo vorrei fare un attimo una descrizione del fatto, quando si diceva anche prima del come si interagisce e soprattutto della parte dell'educazione, cioè quando è stata costruita sono state costruite le prime app, il modo per misurare il successo di un'app era quanto tempo gli utenti rimanevano e passavano, tornavano e passavano sulla piattaforma, e ovviamente questa cosa qui nel tempo, con varie compagnie, varie ricerche, così può essere, diciamo, risolta in una banalizzazione, una semplificazione, che a un certo punto hanno una quantità di dati che misurano il comportamento di tutti gli utenti. Diciamo, questo utente è rimasto su questa piattaforma tot tempo perché ha visto questo contenuto. Tu, algoritmo di machine learning, dimmi quali sono i comportamenti, cioè i comportamenti e i contenuti che hanno permesso all'utente di rimanere sempre sulla piattaforma. E uno dei comportamenti più semplici che produce questa cosa è la dipendenza, la soffazione, come la gente che gioca a videopoker. Cioè, se io riesco a far sì che a dare del contenuto alle persone per far sì che loro rimangano incollate alla piattaforma, questo permette alla compagnia di andare agli investitori e dire: guarda, i miei utenti stanno 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, faccio un sacco di soldi, il mio ritorno per ogni utente è molto più alto di una compagnia, di un'app che ha un utente che si connette 5 minuti al giorno. Quindi come produco però questo comportamento di assuefazione dell'utente rispetto alla piattaforma? Attraverso dei meccanismi che delle notifiche, del contenuto, e c'è tutto uno studio. I video di TikTok, per esempio, hanno una durata che va a toccare esattamente lo spazio dell'attenzione. Qui si parla di neuropsicologia cognitiva, che c'ha praticamente uno spazio per cui troppo poco sarebbe non recepito, sarebbe non abbandonato, ma permetterebbe l'ingresso di altri stimoli sensoriali. Quindi un continuo nel libro dove scrivo, quindi non sto qui a dirlo, però banalmente c'è, cioè, quando tu hai la tua attenzione si basa su tre fasi: la cattura dell'attenzione, il mantenimento dell'attenzione e la fine dell'attenzione. Nel momento in cui io ho questo stimolo costante, in pratica non riesco a mantenere l'attenzione, continuo a saltare da cattura, calo, e paradossalmente, però questo ciclo in tre fasi è quello che permette al cervello di misurare il tempo. Cioè, se io leggo un libro per 2 ore, quindi la mia attenzione è sul libro per 2 ore, mi accorgo che sono passate 2 ore. Se io continuo a saltare su questo ciclo, perdo la cognizione del tempo, rimango in un continuo presente. Diciamolo, a chi non è capitato di stare su un'app per ore o per tanto tempo senza rendersi conto di essere stato sull'app? E questo è proprio il frutto di questa strategia, che semplicemente nasce per massimizzare il profitto, ma che ha un effetto sugli utenti di produrre all'interno di proprio la nostra capacità neurale una abitudine, perché le abitudini si realizzano nel momento in cui determinati circuiti neurali vengono stimolati ripetutamente. Più un circuito neurale che corrisponde a un'azione viene stimolato ripetutamente, più si crea un'abitudine. È più facile quindi che i segnali vengano dei nostri neuroni vengano instradati verso aree del nostro cervello che sono stimolate ripetutamente. Quindi, se io ho queste scariche di endorfine che ricevo col contenuto costantemente, costantemente col contenuto che vedo sul mio smartphone, le mie capacità neuronali si abitueranno a questa assenza di tempo, un eterno presente, in cui l'analisi più complessa, oltre questo periodo di tempo limite tipo di TikTok, non è per me, cioè comporta uno sforzo maggiore. E non è una cosa, tra l'altro, di cioè non stiamo parlando di cose che non hanno poi un ritorno, un impatto nel reale. Cioè, una delle cose una delle cose più tipiche che si vedeva nei rifugiati dall'Ucraina, e non parliamo di Ucraina, però dei rifugiati dell'Ucraina, era il cosiddetto doom scrolling. Cioè, su Telegram, su Instagram, su altre social, su TikTok, si vedevano queste persone che, soprattutto nei primi inizi della guerra, non riuscendo a trovare un ragionamento complesso che potesse spiegare quello che stava succedendo, perché giustamente non era così facile da comprendere. Il continuo guardare i fatti della guerra sui social permetteva una sorta di ottundimento, grazie, ottundimento sensoriale che portava a uno stato di torpore. Visto? E questo produce esattamente questa cosa. Però, cioè, siamo proprio in questo scenario, e questo però produce anche la difficoltà di un ragionamento che sia più complesso rispetto a quello dell'analisi di una scarica di endorfine prodotto da un contenuto visto sul social e poi un contenuto successivo che mi dà la stessa scarica di endorfine. Allo stesso tempo, questo produce la questione delle bolle di fake news, nel momento in cui chi... Cioè, io ci ho provato a parlare con gente, tra l'altro ex movimento di Bergamo, che durante il Covid sparava cazzate sul Covid. Prima iniziava col 5G, poi ha sparato col Covid. Però, cioè, io ci ho provato a discutere ed è assolutamente impossibile, perché la questione era impossibile nel mio... come avevo provato io, che era semplicemente da buon background a scienze dure, c'è l'esperimento, c'è il risultato, questa è la verità. Con queste persone non era così, perché metti un video che è una cazzata, ti scrivo che è una cazzata, ti faccio vedere, ti porto le prove che è una cazzata, risultato mi porti un altro video. Cioè, perché... È la stessa persona. Queste persone hanno, cioè queste persone che sono finite vittime della spirale del fake news, del Covid, durante soprattutto il Covid, poi magari dico perché durante il Covid, però durante il Covid il loro interazione con social era un continuo flusso di fake news una dietro l'altra, indipendentemente dal fatto, non leggevano neanche quello che c'era, cioè erano gruppi Telegram in cui giravano link con un piccolo titolo che descriveva questa cosa, cioè che dicevano, non so, il vaccino produce 4 arti nei neonati, e prendevano questa cosa e la ricondividevano, poi ne uscivano altre e ricondividevano, ma non cliccavano neanche sul link che ricondividevano, perché non c'era tempo, assolutamente, perché la piattaforma in sé ti produce delle abitudini, e la produzione di abitudine, tra l'altro, è una cosa che deriva dalla teoria di Thaler, del premio Nobel per l'economia, sull'economia, l'economia comportamentale, che l'idea è che se tu vuoi introdurre l'economia comportamentale viene ridipinta come un modo per portare le policy governative nella società in maniera soft, senza avere troppe opposizioni, attraverso la produzione di abitudini. Ma in realtà l'economia comportamentale nasce per cioè scopre il fatto che il profitto maggiore lo produci nei consumatori nel momento in cui crei abitudini nel loro comportamento, e l'abitudine va nello spendere, e produrre un'abitudine significa ridurre al massimo il carico cognitivo che un'azione comporta. Cioè un'abitudine è un meccanismo cognitivo che ha un bassissimo carico cognitivo. Se io faccio sempre la stessa cosa, non ci penso a cosa devo fare. Se io chiudo la porta, non penso a chiudere la porta. Cioè, se io esco e chiudo la porta, non ci penso neanche che ho chiuso la porta. Mentre invece, se mi devo sono in una casa nuova e devo ricordarmi di chiudere la porta, questo mi chiede attenzione e mi chiede questa cosa. È la stessa cosa per cui Amazon riduce sempre di più i numeri di passaggi per l'acquisto. Cioè adesso c'è il buy now, il compra ora, che tu vedi una cosa, compra ora e l'hai comprata, cioè un click praticamente. Questo produce un'abitudine, vedo una cosa, c'è il click, pum, non ci penso. La riduzione del numero, del carico cognitivo delle azioni è anche un prodotto delle interazioni sociali mediate da tecnologia. E qui mi fermo, insomma, andiamo avanti per ora. Ma infatti è preciso, era esattamente... Tra l'altro, le sa, è bravo. Tra l'altro volevo anche dire che per introdurre, perché così spoilero tutto il libro, per introdurre questa cosa, diciamo, rispetto alla percezione e a come effettivamente i social colonizzano la percezione, c'è un delizioso aneddoto su piccioni che raderanno al suolo, anzi che non l'hanno fatto solo perché la gente è stata troppo cieca per capire la potenza dei piccioni. Sì, ti prego. Allora, l'economia comportamentale nasce dalla da psicologia comportamentale, poi adesso non mi ricordo il termine esatto, però da questo psicologo Skinner, americano, che a un certo punto durante l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, tenta di costruire tenta di capire come costruire un razzo in grado di colpire il bersaglio in maniera accurata, cosa che non c'era. Cioè, tu prendevi all'epoca prendevi un bombardiere, andavi su una città, su un obiettivo, buttavi il missile, la bomba scendeva e cadeva dove cadeva, cioè non aveva nessun modo di guidarsi in maniera intelligente verso l'obiettivo. E Skinner, dopo aver fatto il suo esperimento col comportamento degli animali, il cosiddetto apprendimento col rinforzo, che è tra l'altro ironicamente anche una delle tecniche di intelligenza artificiale più applicate attualmente, e che è quella che ha fatto vincere a DeepMind tutti i tornei di scacchi, di Go e via dicendo, battendo tutti gli umani. Praticamente l'apprendimento con rinforzo prevedeva è qualcosa di più di un meccanismo pavloviano, però io prendo un animale, gli insegno che se vede la lucina deve beccare, se becca gli arriva un chicco di grano, mangia il chicco di grano e quindi la prossima volta che vede la lucina becca e prende. Quindi in maniera molto furba ha detto: io prendo questo piccione, lo metto all'interno di un missile, dentro di una bomba, vede davanti a sé uno schermino con un pallino al centro e se vede il pallino che si sposta verso destra, lui becchetta e questo pallino ritorna verso il centro. Ovviamente questo pallino non è altro che i servomeccanismi delle ali, delle alette della bomba, che direzionavano la bomba verso l'obiettivo. Quindi ovviamente questo progetto ha funzionato, l'hanno testato, ha funzionato, l'ha proposto al Pentagono, il Pentagono non si sa bene perché l'ha rifiutato, la voce che girava, cioè i rumors che girava, l'interpretazione che girava era che era troppo ridicolo mettere dei piccioni in un missile, cioè sarebbero stati un po' derisi da tutte le altre potenze, però cioè, la cosa funzionava, e l'idea del condizionamento operante, cioè l'idea che io ho un segnale minimo, una ricompensa immediata e la possibilità quindi di formare un comportamento su questa cosa, è quello che poi, se pensate, è l'interazione che abbiamo banalmente con i social, cioè il mi piace, il like, il contenuto che ricevo mi piace, cioè sono cose che sono state assolutamente prese da chi ha costruito i social, più delle volte in maniera totalmente inconsapevole, perché la maggior parte delle tecnologie sono nate attraverso il cosiddetto A/B testing, in cui praticamente io faccio vedere agli utenti un certo tipo di social, cioè un certo tipo di interazione, per esempio gli faccio vedere il bottone rosso e un altro tipo di utenti gli faccio vedere il bottone blu, vedo che tutti cliccano sul rosso e nessuno clicca sul blu, lo stesso bottone cambia solo il colore, quindi io lo metterò rosso. Tu applica questa cosa su una scala di milioni di utenti, se non miliardi, e tu hai praticamente la possibilità di comprendere il comportamento umano in maniera molto maggiore di quello che poteva essere qualsiasi tipo di esperimento psicologico fatto con centinaia e, nel caso buono, migliaia di individui, soggetti. Tanto è vero che Facebook, alcuni ricercatori di Facebook, incredibilmente finì al centro di una controversia perché pubblicarono uno studio, alcuni ricercatori di Facebook, nella rivista di psicologia americana la più nota, in cui praticamente cosa fecero? Presero, mi sembra, 100.000 utenti da una parte e 100.000 dall'altra. A 100.000 fecero vedere solo contenuti ritenuti positivi, carini, gattini, cose serene. Agli altri fecero vedere, non so, guerre, devastazioni e il resto. E poi misurarono cosa questi 200 minutenti producevano nei mesi successivi. E videro che 100.000 erano tutti tranquilli, così gli altri 100.000 producevano robe un po' pesanti, depresse, cose del genere. Quindi attraverso l'utilizzo delle piattaforme erano riusciti a condizionare esatto, ma non solo. Il problema è che se tu devi misurare l'influenzabilità degli utenti è che tu produci quell'effetto sugli utenti. Quindi loro hanno detto esattamente, e quindi però la questione eticamente è detto: io ho preso 100.000 persone e l'ho fatte stare di merda per 6 mesi. Esattamente, la difesa rispetto a questo, a questa cosa etica, che poi è stato questo studio non è stato tolto, perché la validità scientifica di un esperimento su 200.000 persone che non era mai stato effettuato prima, quindi cioè la scala dell'esperimento era comunque una misurazione scientifica importante, però avevano questa premessa del tipo no, eticamente non è giusto. Però la difesa di Facebook era che nel momento in cui tu clicchi, tu entri, ok, tu entri in una, in uno spazio che è totalmente privato, in cui tu non hai alcun diritto. Quando ti cancellano le cose su Facebook delle volte perché hai scritto sì, ho appena letto il libro di Tony Negri e mi cancellano per razzismo perché ho scritto Negri, non hai modo di difenderti rispetto a questa cosa, perché sei in uno spazio, cioè sei in uno spazio totalmente privato che non è assolutamente regolamentato se non dalle policy interne, e che hanno, e che questo dovrebbe essere anche un del movimento, nel momento in cui la consapevolezza del fatto che io entro in uno spazio totalmente privato, cioè che io non posso chiedere, se non posso veramente pensare ad una richiesta di nazionalizzare Facebook, cioè nel senso non ha alcun senso. È come se chiedono nazionalizziamo l'Ilva, ho detto va bene, quindi cioè, nazionalizziamo l'Ilva, poi vabbè qui si apre una controversia come al solito, però nazionalizziamo l'Ilva. Ciao Taranto e tutti i vostri morti di tumore, continuiamo a avere ancora la stessa cosa. No, è proprio una roba, non puoi semplicemente cambiare la proprietà e dire prendere la proprietà pubblica e mantenere questo sistema di cose per poter effettuare un cambiamento della realtà, ecco. Ma questo tra l'altro, vabbè, in maniera anche questa totalmente estemporanea, poi in realtà ti faccio l'ultima domanda se qualcuno vuole farne altre ovviamente ben accetto, che in tutto questo ci sono tutta una serie di altre dinamiche di diseguaglianza rispetto a quanto gli utenti vengano meno tutelati nelle varie zone del mondo, che ha evidentemente anche a che fare con come dire, il tasso di benessere, il tasso di rappresentabilità, di possibilità di esigere i propri diritti, eccetera, eccetera. Che quindi, vabbè, apre una serie di altri parentesi non indifferenti. Ultimo, ma non ultimo, ti volevo invece chiedere di raccontarci tutto quello che è, e qua andiamo proprio nel tuo rispetto alle intelligenze artificiali, anche tutto quello che è la narrazione un po' falsata rispetto a quanto la intelligenza artificiale sia effettivamente artificiale e quanto invece non abbia bisogno sia fisicamente di esseri umani che come dire verifichino la bontà degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, e dall'altra parte come in realtà effettivamente, qua in realtà chiudiamo un discorso che stiamo un po' tirando da ogni punto di vista, di quanto in realtà appunto niente di tutto questo funzionerebbe se non ci fossimo noi che siamo, cioè noi o chiunque altro, insomma gli utenti poi di queste cose, che viceversa proprio per questo motivo sono anche come dire particolarmente customizzati in maniera da trarne il maggior profitto possibile. E basta questo. No, allora diciamo che ci sono per l'intelligenza artificiale ci sono 3 accezioni nel termine intelligenza artificiale, almeno questa è la mia interpretazione. Allora, il primo è quello dell'intelligenza artificiale che io definisco teorica o classica, che è quello degli studiosi dell'intelligenza artificiale dagli anni 50-60 ad oggi, che l'intelligenza artificiale significa io studio la mente, studio il mondo, studio come queste due cose interagiscono e tento di replicarla su una macchina. Questo è per me la teorica, l'astratta. Poi c'è l'intelligenza artificiale, che è quella che viene venduta, che purtroppo è quella che va per la maggiore, che è quella delle start-up, della Silicon Valley, quelli sui giornali, in cui tu hai l'intelligenza artificiale, che è questo organismo omnicomprensivo e onnipotente che è uno schiocchio di dita e ti risolve i problemi nel mondo. Campione di questo Repubblica, che la pagina tech produce delle robe incredibili. E poi c'è l'accezione, quella che è quella più un pochino più pratica, che è il 99.9% di quello che è l'intelligenza artificiale nei giorni d'oggi, che è principalmente più machine learning, che significa apprendimento automatico, quello con cui io lavoro. E praticamente io ho un problema X, che può essere per esempio riconoscere se nella foto c'è un gattino, ok? Come faccio per riconoscere nella foto c'è un gattino? Io devo semplicemente chiedere a tante persone, o un tot di persone, di ad ogni foto che c'è un gattino fare una spunta. Se questa cosa viene fatta per un numero sufficiente di foto, io prendo queste immagini, le giro all'interno di questo algoritmo di intelligenza artificiale, una rete neurale, e più delle volte una rete neurale, e la rete impara questa correlazione tra la presenza del gattino e determinate caratteristiche dell'immagine, che possono essere c'è del pelo, c'è una forma ad occhio, c'è una forma geometrica che può rappresentare una zampa, cose del genere. Quindi praticamente quello che fa la macchina è trovare delle correlazioni statistiche tra dei dati e un risultato. Cioè semplicemente dice: io vedo tanti dati a cui è stata data la presenza di un gatto, e tanti altri dati a cui è stata non la presenza del gatto. Qual è il discrimine tra i due? Questo è, poi in realtà è una semplificazione molto brutale, però è giusto l'idea di darvi, cioè l'idea che queste macchine con cui ci confrontiamo costantemente imparano dei pattern statistici dei dati, e questi, cioè più i dati si tu puoi descrivere i dati con certe variabili, più quei dati rispondono alla presenza di un gatto o meno. Tutto questo per dire che però senza qualcuno che etichetta i gatti manualmente non hai la possibilità di addestrare questa macchina. Quindi come noi interagiamo con i social all'interno del mondo, e quindi i social vivono attraverso la nostra interazione, come noi veniamo modificati dai social, così i meccanismi, i modelli di intelligenza artificiale non possono vivere senza, da un lato, la presenza di gente che li addestra e che li produce dati per addestrare, dall'altro hai gente che vive il risultato di questa di questi modelli. Faccio un esempio: i modelli di algoritmi predittivi sul crimine che sono stati utilizzati negli Stati Uniti, cioè che dicono, anche lì nella questione che dicevamo prima delle profezie autoveranti, che dicono: io ho un modello di intelligenza artificiale che viene applicato in questo quartiere, c'erano crimini, probabilmente ci saranno crimini, e questo impatta sulla vita delle persone. Quindi i modelli di intelligenza artificiale in sé non sono isolati come tutte le tecnologie, e ancora di più però i modelli di intelligenza artificiale vengono venduti come dicevo prima, con la parte, come la narrazione di Silicon Valley, delle startup che dicono i modelli di intelligenza artificiale risolvono qualsiasi tipo di problema, e vengono vendute come delle tecnologie che sono quasi degli osservatori esterni rispetto al mondo, quando in realtà sono assolutamente interni al mondo. C'è questo bellissimo diagramma che è stato tra l'altro presentato anche qua a Milano a Fondazione Prada, ed è la di Kate Crawford. Praticamente è un mega diagramma di Amazon Echo, che era il pre-Alexa, cioè che comunque quello che aveva Alexa. Praticamente metteva Amazon Echo al centro, poi su questo mega pannello di 12 metri di lunghezza partivi dalle miniere di coltan in Congo e arrivavi attraverso tutti le tecnologie, la gente che doveva cliccare su questo è un audio che dice questa cosa, questo è un audio che dice un'altra, sugli ingegneri che producevano l'algoritmo, sugli ingegneri che lo testavano, sulla gente che usava Amazon Icon e che scriveva ad Amazon dicendo mia figlia mi ha appena comprato 400 rotoli di carta igienica cantando una canzoncina, cosa che è successa tra l'altro, perché Alexa ha capito determinate robe. C'è un tizio che aveva fatto parentesi, era successo, c'è un tizio che praticamente aveva questa canzoncina sulla poo, che è cacca, ed era una canzone punk che era registrata su Amazon Music, quindi più viene visualizzata, più cioè, ascoltata, più questo prende soldi. Questo qua ha fatto una quantità di soldi, perché tantissimi bambini negli Stati Uniti dicono Alexa sei poo, cioè di cacca, e quindi Alexa faceva questa canzone, questo qui faceva una quantità di soldi infinita, cioè per dire che comunque queste tecnologie di intelligenza artificiale non sono in un vuoto. Certo, se tu hai c'è una quantità di utilizzi anche alternativi, perché per quello dicevo prima, non hai cioè il mondo che viene creato da queste tecnologie, più che capire se sei dentro o fuori, che è un esercizio un po' lezioso perché ci sei dentro, è più che altro capire come queste tecnologie siano totalmente mi viene da dire a disposizione, perché però mi sembra un po' arrogante, però per dire più che a disposizione, che sono lì da vedere per come modificano il mondo e come tu puoi inserirti, puoi trovare delle crepe. C'è una delle cose, c'è un libro che non ho ancora letto del tutto, ho letto solo gli stralci, l'ho comprato ma non ho ancora tempo, che si chiama Glitch Feminism, che praticamente ma fa parte in una teoria del glitch, come il glitch è l'errore, è il pixel bruciato sullo schermo, è il videogioco che a un certo punto ti fa prendere il tuo personaggio e lo butta in uno scenario totalmente fuori dal contesto in cui sei. È quel glitch da lì che è sfruttare, perché ti apre delle crepe rispetto a quello che è questa produzione di realtà delle tecnologie in senso capitalista, e che però ti producono invece ti danno uno squarcio su un'alternativa possibile che dovremmo riuscire a sfruttare. È un compito totalmente impari, siamo veramente, cioè storicamente, i contadini che vedono la rivoluzione industriale, cioè siamo quelli che ma non noi in particolare, tutto il mondo vive questa cosa con tra l'altro una rapidità di applicazione di queste tecnologie che non appare nell'umanità e che ci trova totalmente disarmati. Ma il concetto di base per cui queste tecnologie sono creatori di mondi e che le nostre relazioni vengono modellate rispetto a questa cosa, più che noi che dobbiamo astrarci, toglierci, esiliarci, dovrebbe essere quello che ci fa muovere per la costruzione di qualcosa di alternativo in questo contesto. Tecnologie liberanti, però cioè sono cazzi, nel senso che non sono cose facili da produrre, non sono cose facili neanche da teorizzare o contestualizzare, però ci sono gli spazi per partendo da questa forma di analisi critica per poter arrivare a una costruzione di queste, non costruzione ma almeno una formalizzazione di queste possibilità. Il tutto sta però rispetto a cioè io ho sentito poco, purtroppo, una critica riguardo quando la Meloni ha detto faremo la lista delle gente che cerca lavoro e con l'intelligenza artificiale gli daremo il lavoro che vogliono, cioè che è meglio per loro. Cioè quella roba lì, che poi, cioè nel senso ovviamente sta cosa non funzionerà e non l'applicheranno mai, però la contestare questa cosa, come la stessa cosa che diceva Renzi poco tempo fa, che dice, quando era ancora premier, che diceva dobbiamo investire sull'intelligenza artificiale. Cioè è proprio quel concetto, è quella conoscenza, cioè quel concetto di intelligenza artificiale che deve essere contestato attraverso una conoscenza della tecnologia senza la paura di quello che comporta, cioè produce effetti negativi, produce, risponde a quello che è il capitale, ma cioè nel senso non è niente di diverso da quello che avevamo prima, cioè cambiano la scala, cambia l'impatto, ma sempre capitale è, sempre predazione è, sempre sfruttamento dell'uomo sull'uomo attraverso la tecnologia, però questa cioè il cambiamento è attraverso la tecnologia, però è quello, è cioè quello non cambia, quello che da anticapitalisti si dovrebbe fare, e qui adesso mi prendo probabilmente il vodka tonic e mi dà così, è proprio il fatto di conoscere come funzionano questi strumenti, astraendo dalla singola piattaforma, astraendo dalla singola tecnologia, andando a conoscere i meccanismi fondamentali, a cosa rispondono queste tecnologie. Cioè dire che la tecnologia è neutra o no, si torna indietro a i discorsi negli anni 50 di Simone Don, l'ho pronunciato giusto? Non so, Simone Don, grazie, scusa, io sono un cane, rispetto a come la tecnologia si situa nel mondo. Cioè per me il discorso tecnologico deve essere fatto proprio nei movimenti, astraendo dall'utilizzo ma non troppo, ma andando comunque a comprendere come queste tecnologie producono mondi e come noi produciamo mondi con le tecnologie, come siamo in questo livello orizzontale tra macchine e umani e tutto il resto che ci circonda, ovviamente non siamo in un vuoto prodotto da macchine e umani, ma che comunque definiscono quello che è i futuri possibili, sta a noi scegliere qual è. Io adesso non ho più niente da dire, se qualcuno vuole dire delle cose, forse Gin, forse se non è timido le vuole dire, dai, le vuole dire, le vuole dire. Come fai a sfruttarle in soldoni, cioè queste tecnologie? Perché se sai che sono, tra virgolette, infette, se sai che sono loro che ti creano la tua realtà, come fai a sfruttarle? O anche a... Perché secondo me ti faccio un gancio rispetto ad una cosa, perché prima abbiamo parlato di cybersyn, però poi tu a un certo punto dici in realtà anche quella cosa lì fondamentalmente uguale, che quindi stiamo tornando indietro negli anni 70, quindi liberandoci un po' dalla superombra di Zuckerberg e dei friends, in realtà anche quella nel giro di poco potenzialmente può essere usata malissimo, quindi sì, cioè cybersyn praticamente il dottor Beer, che sembra una, però il dottor Stafford Beer, che era il principale artefice di questo progetto, dopo il colpo di stato in Cile viene chiamato da due stati, due governi che volevano applicare una cosa simile. Uno era il Brasile, che era in sotto dittatura militare, e l'altro era il Sudafrica, che voleva rendere l'apartheid digitalizzato, quindi costruire una sorta di archivio, e si chiamava il Blue Book, un archivio razziale che divideva, digitale, che divideva la popolazione. Come fai a sfruttarle? È una bellissima domanda, non lo so, e questa è la grande... però il base di quello che ho detto è: partiamo dalla consapevolezza di queste cose, perché io vedo un discorso veramente che è giusto, che riguarda tantissimo gli effetti delle tecnologie, ma dal punto di vista di cosa producono come effetto, ma qual è la causa ultima, tra virgolette, della produzione di questo effetto, è un discorso che viene, non dico taciuto, ma che viene tenuto un po' in parte, nel senso, vedo tantissime discussioni sugli algoritmi che discriminano, ed è corretto, gli algoritmi che vengono messi per esempio negli Stati Uniti nel controllo del confine, in cui tu hai metti il, che ti profilano in base alla razza e via dicendo, però il perché queste tecnologie vengono attuate per me il discorso, cioè perché queste tecnologie vengono attuate, viene ricondotto a un discorso per cui cade un po' la motivazione ultima, nel senso, se io metto questa colonnina che ti guarda al confine degli Stati Uniti e ti profila razzialmente, è perché mettendo quella colonnina io riesco a schermarmi dietro la neutralità tecnologica del dire che io, se vengo profilato in un certo modo, non ho modo di dire tu ufficiale di frontiera mi hai discriminato razzialmente, quindi tu puoi essere preso licenziato. Un algoritmo l'ha fatto, e come succede con Facebook che ti cancellano i post e non sai a chi rivolgerti perché ti hanno cancellato i post, cioè l'utilizzo di quella tecnologia è semplicemente fatto per eliminare l'errore umano, in realtà per produrre un alibi riguardo al fatto che determinate pratiche possono essere attuate e nasconderle dietro l'alibi tecnologico. Quindi il problema in sé è l'applicazione tecnologica, ma è anche l'applicazione tecnologica come riaffermazione di determinate forme di diseguaglianze. Questo è un tipo di esempio, però il discorso in sé deve riuscire a comprendere come, cioè deve partire dalla base di queste tecnologie inserite nel mondo, ed è una roba che io vedo che vedo poco. E poi come l'utilizzo di queste tecnologie come questione liberante è possibile nel momento in cui parti dall'obiettivo che qualsiasi tecnologia in sé nasce rispondendo a un obiettivo, anche la più semplice risponde a un determinato obiettivo, ma la scelta dell'obiettivo in sé esclude una parte di altri mondi alternativi. Questo è nella natura delle cose. Quando io produco qualcosa, questa produzione nasce da una visione del mondo, ma produce e riafferma questa visione del mondo. La consapevolezza di questa cosa per me è qualcosa che un po' manca, e soprattutto manca dal punto di vista di chi produce tecnologia e di chi interagisce con la tecnologia. Io volevo chiedere se potevi fare un esempio, se ce l'hai, concreto e attuale, che non sia in positivo, diciamo, che non sia ISIS, di appunto movimenti, persone, eccetera, che sono riusciti effettivamente ad introdursi in queste crepe e a creare qualcosa di creativo. Ma gli esempi, in realtà, cioè nel senso, possiamo farli, però dobbiamo sempre comprendere che queste tecnologie non sono fisse, è la classica questione di classe e di composizione di classe. Cioè, durante la primavera araba, Twitter è stato uno dei meccanismi più liberanti rispetto a quello che poteva essere, cioè che è stato uno dei motori della primavera araba. Il problema cos'è? Che non basta quello, cioè, cioè nel senso, ha permesso poi quello che è successo, poi il riflusso ha prodotto quello che è successo. ISIS purtroppo è stato un esempio di riutilizzo, ma ce ne sono costantemente. Cioè, Cybersyn utilizzava le telescriventi per andare contro lo sciopero attuato dalla CIA contro il governo Allende. Cioè, ce ne sono costantemente, sia come vittorie che come fallimenti. Cioè, è proprio questa per me è anche normale, come tutte le forme di rivoluzioni, nel senso, nel momento in cui noi abbiamo delle forme, cioè Twitter è stato per me l'esempio più forte per le rivoluzioni arabe, ma ci sono anche utilizzi alternative dei social network, come possono essere anche paradossalmente Reddit è stato quello che ha prodotto i crolli di alcuni fondi di investimento, perché la gente su Reddit si è organizzata e ha investito su GameStop, che era shortata, dei fondi di investimento che avevano investito tantissimi soldi sul fallimento di GameStop. Questi di Reddit si sono messi insieme e hanno fatto, inconsapevolmente, per gioco, per scherzo, però hanno investito in GameStop e hanno prodotto non dico un crollo di un fondo di investimento sicuro, quindi cioè stiamo parlando comunque di possibilità che ci sono e ce ne sono costantemente, il problema è strutturarle, organizzarle in senso di rivoluzionario, questo è un po' difficile, ecco. Mi dovete scusare perché io non sono, mi sono perso la prima parte, dunque magari ne avete già parlato in questo caso molto brevemente. Volevo sapere, visto che prima hai citato le tecnologie liberanti, che dire del software libero? Si può inserire in questo contesto? Ma su software libero ho letto, guardato stamattina, proprio un articolo molto illuminante sul fatto che il software libero in sé è libero quando permette anche la liberazione dai meccanismi capitalisti che gli sono intorno. Nel senso, c'è stato tanto software libero che ha prodotto tantissimo, che ha prodotto una capacità e una conoscenza, uno sviluppo delle conoscenze enorme. Al tempo stesso però c'è tanto software libero che è stato ripreso, reintrodotto all'interno del sistema capitalista e che non è riuscito a scalfire quello che lo circondava. Cioè software libero in sé, se pensi a OpenStreetMap per esempio, che è il più grande archivio libero di mappe al mondo, la maggior parte dei contributi derivano da Apple, Facebook mi sembra, quindi compagnie che sono assolutamente private, che fanno un sacco di capitale ma che puntano sul software libero. Cioè il software libero in sé è una pratica che per me è fondamentale ma che non può essere isolata da un contesto che deve essere deve riuscire a comprendere anche quello che lo circonda, diciamo. Non so se si aggancia a questo, però io penso che in tutto questo noi stiamo, cioè nel senso, ci stiamo spostando al di qua e al di là di una linea che ha a che fare con come dire, la tecnologia in sé e l'utenza slash come dire, la controparte umana che si relaziona ad essa. E questo lo facciamo, in realtà lo possiamo fare anche dal punto di vista fisico, nel senso che il punto, secondo me, adesso non so se sto dicendo una cazzata rispetto a quello che diceva Dan, cioè rispetto a quello che chiedeva Dan e a cui rispondevi tu, ma che il punto è sempre che ovviamente, sempre rispetto al discorso che stavamo facendo, come noi, cioè come queste tecnologie condizionano noi e il nostro, come dire, rapporto con la realtà, e viceversa come noi possiamo muoverci altrimenti, ovviamente fa la differenza. Lo dico in maniera molto banale, questo spazio è uno spazio liberato, evidentemente per quanto mi riguarda costituisce un, come dire, una realtà liberante rispetto al mondo esterno, viceversa lo fa cioè, come dire, l'ambiente d'apprendimento non è solo spazio fisico, è anche la maniera in cui ci si relaziona. Quindi la domanda per noi potenzialmente può essere sempre quanto questo spazio basta di per sé ad essere liberante, quanto invece serve un approccio che ha a che fare con l'autogestione, tutta una serie di meccanismi, diciamo, di relazione con la realtà che noi militanti tendenzialmente mettiamo in atto, mentre magari qualcuno che arriva per una serata e poi se ne va, cioè quanto fa. E quindi ovviamente il punto non è solo quanto è libero o meno libero lo spazio della tecnologia, ma sicuramente nei termini in cui oramai lo stiamo dicendo in 25 modi diversi, però se l'utente medio è relazionato al mondo dell'internet con l'app che riduce ogni tipo di comprensione del meccanismo fra un input e un output, evidentemente cioè il problema permane, e quindi forse lo spazio critico anche che apre questa lettura e il lavoro che fa Unit e tutti quelli che, come dire, sviluppano una visione critica rispetto a questa cosa è imprescindibile, nel senso che il discorso appunto non è necessariamente solo quanto è privato lo spazio a cui facciamo riferimento, ma anche come noi abbiamo appreso a relazionarci con esso, e quindi quanto, cioè, quanto è imprescindibile che la gente, nello spostarsi verso una piattaforma anche che potenzialmente non sia predatoria, sappia che c'è un grosso scarto fra i due. Ho detto una stronzata. No. Dai, fai. Allora, c'è adesso praticamente c'è una pausa perché giustamente Claudio doveva andare in bagno. E visto che c'è un pianoforte, se qualcuno vuole arrangiare un momento tipo accompagnamento, tipo pesce, può fare quelle giapponesi, esatto. No, e dopodiché io non so se qualcuno abbia qualcos'altro da dire quando arriva Ceru, o se vogliamo fargli un grosso applauso e emanciparlo da questo microfono finto. Se volete faccio un po' di canzoncina tipo così, esatto. Bene, allora basta, facciamo qua, esatto, lo aspettiamo con un applauso tipo festa sorpresa. A questo punto io direi che possiamo, non so se io continuo a parlare, certo, stai attento, benissimo. Vai, adesso posso allora, se qualcuno ha anche, esatto, delle, posso leggere dei brani a caso? No, allora, brava, esattamente, scusate, i libri, tra l'altro lo faccio io, i libri sono così, non sembra neanche una sviolinata, sono perché tanto non li devo vendere io, quindi sono molto belli, veramente, comprateli. Cioè, io lo posso dire perché non è, quindi sono qui per Prospero Editore, sono usciti per Prospero Editore, sono degli oggetti oltretutto anche molto graziosi. Quindi invito tutti a comprarli qua e a chi ascolta questo podcast a comprarli o sul sito di Prospero Editore o nella deliziosa cornice di via Tartini 14, nella ridente Bergamo, vicinanza, nella ridente Bergamo, per cui se volete prendeteli, se non volete prendeteli lo stesso, e se volete passate di qua, rimanete qui per la serata danzereccia, cantereccia e per la cena legale. E grazie Ceru, evviva! Ceru ha vinto l'incontinenza. Ha vinto l'incontinenza ed è tornato e si è preso il suo bellissimo applauso, meritatissimo, gentilissimo, cordialissimo, è sempre un piacere. Speriamo di leggere una parte 2 e di ascoltare una presentazione parte 2. Basta. C'è chi dice di no, speriamo di ospitare presto anche gli amici, fratelli, sorelle, compagni e compagne di Prospero. E viva tutti, basta, ciao Radio ZM.